Marco e Davide trovarono una vecchia mappa nel solaio della nonna. Mostrava un tesoro nascosto nella foresta. Così partirono pieni di entusiasmo. Dopo ore di ricerca, trovarono una grande quercia con una X incisa sul tronco. Scavarono e scoprirono un vecchio scrigno pieno di monete d'oro. Felici, decisero di portarlo al museo del paese. Diventando piccoli eroi.